gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I love Italy, grazie al nostro caro Marco, un cantautore milanese, un caro amico che è appunto è lui che ci ha fatto la sigla cantata con la sua bellissima chitarra e con l'armonica bocca che ricorda il grande Bob Dylan. Ringraziamo anche Manuela, la sua compagna Manuela. Prossimamente sentirete anche la sigla finale fatta sempre da Marco e da Manuela. Benvenuti su Double RMI Radio Miami International, benvenuti sulle onde corte, al microfono c'è Andrea Mangiarotti dallo studio dell'Oltre Popavese di Radio Miami. Che cos'è I Love Italy? Spieghiamolo velocemente, scusate, è un contenitore che parla dell'Italia, in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi qualcosa che parla della nostra nazione, dell'Italia, visto e considerato che sono sempre pochi i programmi sulle onde corte, la RAI le ha cessati da tanti anni, noi però siamo qui a tener botta come il mitico Roberto Scaglione e siamo sempre in onda anche sulle onde corte con I Love Italy. Questa trasmissione poi la troverete in giro in podcast, basta cercare I Love Italy Double RMI, ci trovate, c'è il nostro sito Voice ofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì trovate tutte le registrazioni appunto di I Love Italy, potete conoscermi più da vicino e così via, e potete anche mandarci rapporti di ricezione. Bene, come state cari amici e cari amiche? Ben trovati, se appunto volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare o tramite mail alla mia mail personale andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per i rapporti di ricezione, oppure direttamente dal mio sito www.andreamangiarotti.com, lì potete anche scrivermi attraverso il mio sito. Altri contatti, quelli della radio, wrmi.net, il sito ufficiale di Double RMI, la WRMI che ci ospita, lì potete anche in questo caso mandare il vostro rapporto di ricezione in via telematica oppure anche in formato cartaceo con una cartolina o una lettera, basta scrivere a Double RMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi giorni, questi mesi, noi cerchiamo sempre di fare un programma allegro, però come non parlare di quello che sta succedendo nel mondo e che da circa un paio di mesi è appunto questa guerra in Ucraina. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci sentono dall'Ucraina, ma anche dalla Russia e anche chi ci ascolta dalla Corea del Nord, dalla Corea del Sud, perché hanno cercato di mettere tutti questi vari paletti a internet, alle radio in modulazione di frequenza, però con le onde corte non è possibile, bisognerebbe mettere su un muro per non far passare il segnale delle onde corte, quindi la voce del vostro Andy Mangiarotti la potete sentire anche in Ucraina, in Russia, in Corea del Nord, in Corea del Sud e così via, un po' dov'è che si raggiunge, però sapete che l'ascolto delle onde corte è sempre molto difficile da stabilire perché cambia a seconda di determinate coordinate che sapete meglio di me, quindi purtroppo viviamo in questo brutto periodo e ci sono veramente tante guerre del mondo, anche in Africa, ancora guerre sanguinarie. Sembra che l'uomo non abbia imparato nulla dal suo passato, di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo passato anche noi italiani in prima persona con la Seconda Guerra Mondiale e poi anche con questa guerra veramente civile che fu proprio il periodo della Repubblica di Salò, dove italiani contro italiani si ammazzavano gli uni con gli altri, un po' come sta capitando in Russia e Ucraina, dove queste nazioni, direi sorelle, si scontrano e si uccidono anche tra di loro. Va bene, noi iniziamo con un discorso del Santo Padre, Papa Francesco, che ci ricorda veramente quanto sia brutta, quanto sia devastante, ignobile, non ho altri aggettivi, queste guerre che ci sono nel mondo. Ascoltiamo in religioso silenzio Papa Francesco. Ascoltiamo subito Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani. Perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia. Sempre parole molto alte, molto toccanti di Papa Francesco. Speriamo che arrivino nella testa di questi governanti, si mettono veramente in testa che se vogliono essere religiosi si fanno il segno della croce e poi vanno in chiesa, si ricordino bene di quello che stanno facendo. Come ha ricordato Papa Francesco, quanti bambini sono morti e muoiono ancora oggi in tutte le guerre in giro per il mondo. Spero abbiate gradito il contributo della Radio Vaticana. Ora continuiamo e cambiamo argomento qua a I Love Italy. Il mese di marzo appena passato è stato un mese molto molto interessante, direi significativo per quanto concerne il cinema italiano, visto che da un po' che non portiamo a casa le statuette negli Stati Uniti. Comunque il mese di marzo è stato un mese veramente fondamentale perché abbiamo festeggiato due grandi compleanni, purtroppo ovviamente compleanni postumi, perché questi due grandi artisti del cinema italiano ci hanno lasciato. Abbiamo festeggiato nel mese di marzo il compleanno di Ugo Tognazzi, il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, e proprio per l'occasione il figlio Ricky Tognazzi, che è anche un regista apprezzato e stimato non solo in Italia, ha scritto e diretto un bellissimo docufilm dedicato proprio a Tognazzi, dal titolo La voglia matta di vivere. Si rifà un pochino al titolo di un suo film, La voglia matta. Lui, Ricky, ha utilizzato questo nome. La voglia matta di vivere è un bellissimo docufilm che vi consiglio di vedere. Lo potete vedere sul sito di Rai Play, basta cercare raiplay.it, non so se dall'estero sia visibile, spero di sì, se no dovreste usare delle VPS per oltrepassare, insomma. Comunque è un bellissimo docufilm che potete vedere sul sito della Rai, basta cercare raiplay.it, lì cercate appunto il titolo che vi ho detto, La voglia matta di vivere, e vedete questo bel docufilm dedicato a Ugo Tognazzi. Siamo veramente in ritardo, però dobbiamo anche celebrare un altro grande. Questa volta ci spostiamo dalla sala macchine ci spostiamo appunto da Ugo Tognazzi, che è stato un grande attore ma anche regista, ci sono 5 film diretti da lui, al grande Pierpaolo Pasolini, che anche lui ha festeggiato i 100 anni dalla nascita proprio nel mese di marzo scorso. Vi ricordiamo che la Cineteca di Bologna, per chi è che abita in Italia, chi è che ha intenzione di andare in Italia e così via, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con moltissimi cinema italiani, organizzano una bellissima rassegna di film di Pierpaolo Pasolini che potete vedere per tutto il mese di aprile. Potete visionare pellicole come Comizi d'amore di Porè, Porcile, Decamerone, I racconti di Canterbury, Fiore di Mille e una notte, e poi il film forse più più tosto del regista di Casars, Salò e le 120 giornate di Sogoma, che è un film veramente particolare. Alcuni l'hanno definito sceno, altri è veramente un Pasolini irriconoscibile. Comunque, queste pellicole per il mese di aprile e di maggio, quindi bellissima manifestazione, le potete vedere restaurate in 4K in giro per il cinema d'Italia. Quindi se siete in Italia magari non perdete questa occasione, se il cinema dov'è che magari siete in visita organizzano questa rassegna, non perdetelo, perché ve lo ricordo, per aprile e maggio potete vedere i film di Pierpaolo Pasolini al cinema in Italia restaurati in 4K. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, noi andiamo veramente veloci perché il tempo è tiranno. Ora ci sentiamo anche una bella poesia, perché Pasolini fu anche uno scrittore, nonché regista, sceneggiatore e anche poeta. Una sua bellissima poesia, Supplica a mia madre, che un po' tutti noi maschietti forse ci identifichiamo con questo capolavoro di Pierpaolo Pasolini, che vi facciamo sentire in questo istante dalla viva voce del regista. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Supplica a mia madre, questa bellissima poesia scritta dal regista, cineasta, nonché poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. E con Pasolini noi siamo giunti al termine anche di questa puntata di I Love Italy. Io ringrazio come sempre Jeff White, che ci permette di essere in onda sulle onde corte un po' in giro per il mondo. Vi ringrazio ancora una volta, e se volete magari interagire con Andrea, ricordate andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche wrmi.net, il sito di Double RMI, Radio Miami International, che ci ospita vita per l'appunto. Grazie, un abbraccio a tutti e ciao ciao da Andrea, e ora le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore qua su Radio Miami. Ciao ciao. www.andreamangiarati.com